Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, vigilia di quarto di finale di Coppa Italia, il primo della serie settimanale. Stasera Juventus-Roma, direi in assoluto il più atteso, ma darei la precedenza all'appuntamento con il calcio internazionale, che oggi è particolarmente ricco grazie a due abitué di questo, delle cronache in assoluto e di questo programma in particolare, come in ordine alfabetico, Mario Balotelli e José Mourinho. Bentornato, caro ministro Tavelli. Grazie Gigi, buongiorno a tutti. Senti, cominciamo da Balotelli, che sta rischiando seriamente la squalifica, anzi ormai mi par di capire che, anche se non è ancora arrivata, è bella prenotata. Sì, beh, è bella prenotata, non è ancora ufficiale, però lui è stato deferito dalla Football Association per comportamento violento. Si riferisce la cosa alla partita tra il Manchester City e il Tottenham di domenica, quando lui ha dato questo calcio con il tacco al malcapitato Parker, un calcio all'indietro che insomma qualcuno ha giudicato volontario, altri hanno giudicato involontario. Lo stato dei fatti è che l'arbitro Webb ha detto alla Football Association di non averlo sanzionato perché non l'ha visto, ma aggiungendo che se l'avesse visto l'avrebbe sanzionato con un cartellino rosso. Questo ha fatto scattare il deferimento. Adesso da regolamento Balotelli avrà la possibilità domani sera, credo, di spiegarsi, di essere ascoltato, e dopo questo la Football Association deciderà l'entità della squalifica, che potrebbe essere di 4 giornate, potrebbe essere di meno, potrebbe essere di più. La sensazione è che la squalifica comunque ci sarà. Bisognerà capire, secondo me, un paio di cose. A, come si difenderà Balotelli, e io penso che si difenderà sostenendo la propria innocenza, nel senso dell'involontarietà. B, che tipo di clima c'è, perché in questo momento sembra che la componente italiana, non solo in Premier League ma anche in Championship o in campionati minori, non sia particolarmente amata dai vertici federali e in generale anche dalla stampa, quindi non so se il clima possa essere favorevole in questo caso per uno sconto, o perché Balotelli la passi liscia, come è capitato ad esempio a Pepe, che ha commesso una cosa credo anche più grave, sì, se vogliamo metterle una accanto all'altra. Direi di sì. Tra l'altro ho letto che in Spagna per ora Pepe l'ha fatta franca, ma questo procedimento potrebbe poi intervenire. Poi ci spiegherai perché diciamo le due buone ragioni in più per cui, o buone o discutibili ragioni in più per cui ce l'hanno con gli italiani. Effettivamente quel movimento di Balotelli di domenica sembra involontario, ma in realtà è assai più sospetto. Nella vostra diretta di domenica Costa Curta l'ha battezzato subito come il calcio del cavallo, commettendo un grave errore, perché è il mulo che scalcia all'indietro, e te lo dice uno che, avendo governato muli da artigliere della montagna durante il servizio militare, al mulo si sta davanti, perché davanti non è un problema, è dietro che scalcia il mulo. Ma questo è un altro spaccato di vita vissuta. Webb nel suo referto ha scritto che se avesse visto quanto accaduto avrebbe certamente espulso l'attaccante italiano. Webb è quello che ha diretto la finale mondiale, se, come ricorderai, Spagna, sì. No, Spagna-Olanda, e che Webb possa non aver visto, direi che è solo normale, no? Sì, è una conferma, non ha visto cose anche più gravi. Aggiungo però un paio di cose. Io ho la netta sensazione, e l'ho detto anche in diretta domenica, al momento in cui ho visto le immagini, fosse per la totale volontarietà dell'atto, un atto completamente stupido, proditorio, però secondo me era volontario. Non ho del tutto cambiato idea, anche se ieri ho avuto un paio di considerazioni che mi hanno almeno portato a dubitare. La prima è che ho avuto il piacere di incontrare un grande attaccante della Serie A ieri nei corridoi, e secondo me bisogna che siano i calciatori a spiegare queste cose qua. E io gli ho chiesto: ma secondo te l'ha fatto apposta o no? E lui mi ha detto di no. Fa: guarda, può sembrare, ma è involontario. E oltretutto, poi, bevendo un caffè con Nicola Roggero, che ha raccontato benissimo, tra l'altro, la partita, come sempre, lui mi ha detto: guarda, secondo me è involontario, perché Balotelli avesse fatto questa cosa volontariamente in campo, quelli del Tottenham sarebbero andati ad azzuffarsi. Questa è una buona riflessione. Cioè, gli avrebbero portato via un pezzo cioè avrebbero voluto lo scalpo. Di acconciatura, sì. Questa è una buona riflessione. Siccome nessuno, e questa è una deduzione di Nicola molto interessante, da grande esperto di calcio inglese, internazionale in genere, siccome nessuno del Tottenham è andato a cercare di farlo a pezzi, può essere che la sensazione che hanno avuto loro dal campo di calciatori sia stato un comportamento involontario. Posso sapere il nome del gran attaccante di Serie A? Marco Di Vaio. Marco Di Vaio. effettivamente ieri era presente nei vostri studi. Vabbè, senti, lasciamo Balotelli al suo destino, che potrebbe essere meritato o immeritato. Prima dell'intervallo, un minutino e mezzo, grosso modo, un paio di minuti, ci dici perché in questo momento tira una brutta aria per gli italiani in Premier o anche nelle divisioni minori? Beh, perché intanto Balotelli ne combina parecchie, però in questo senso dà molto cibo ai tabloid, quindi in realtà gli mancherebbe. Ma anche Roberto Mancini non sta passando un momento particolarmente simpatico, nel senso che è entrato in una polemica molto, molto aspra con un'icona del calcio inglese come Steven Gerrard, per quello che è accaduto nella gara d'andata della semifinale di Carling Cup. Mancini tra l'altro un paio di volte è stato accusato non solo da Gerrard di essere uno che chiede agli arbitri determinate decisioni, chiede i cartellini, cosa che invece gli inglesi non vogliono che si faccia. E poi c'è Paolo Di Canio, che è stato cacciato per l'ennesima volta dal campo, ha avuto una protesta molto, molto vibrante. Per lui sostiene: io, se sto nella mia area tecnica, posso sbraitare, posso muovermi, gesticolare, ho il mio body language particolare, quindi gli arbitri non mi devono cacciare, ce l'hanno con me. E anche questi credo siano comportamenti non particolarmente british, che, ripeto, io non giudico, sì. Loro li però giudicano negativi, insomma. È vero, ci sarebbe anche ci sarebbe questo Borussia Dortmund, ci sarebbe questa stupenda classifica, no, del campionato tedesco. Dai, 20 secondi prima di passare poi dopo l'intervallo alla Spagna. Beh, sai, le classifiche stupende sono di solito dovute al fatto che le squadre favorite ogni tanto frenano, e in questo momento la frenata del Bayern di Monaco è una frenata evidente, cioè la ripartenza dalla pausa per la squadra di Monaco è stata decisamente negativa. E la Bundesliga ci ha insegnato che negli ultimi anni questo è abbastanza normale, cioè quando una squadra non scappa via poi si fa sempre gruppone, e quindi anche la vittoria del Borussia Dortmund di domenica, la vittoria dello Schalke 04, il ritorno ad alti livelli del Borussia Mönchengladbach, credo che dia in questo momento alla Germania il campionato più combattuto in vetta, perché anche in Italia i distacchi sono abbastanza brevi, però tutti pensiamo che sarà sfida tra Juventus e Milan. Lì onestamente è molto molto difficile, lì ci sono almeno 4-5 squadre che il titolo possono vincere, fermo restando che il Bayern poi è favorito comunque. Leggo dal servizio pubblicato stamane dalla Gazzetta dello Sport, nel suo inserto Extra Time dedicato al calcio europeo, questa corrispondenza di Filippo Maria Ricci da Madrid. Comincia così: sull'aria da donna immobile verso la fine della sfida con l'Atletic, gli ultrasur decidono che è il momento di dedicare il consueto omaggio sonoro a Mourinho. Si aspettano che lo stadio si unisca festante come sempre e invece si trovano sommersi di fischi. Sorpresi ci riprovano e di nuovo giù fischi. La prendono come una questione personale, terzo tentativo che finisce male come i primi due. Lo stadio ha voltato le spalle a Mu. Gli ultras sanno che dar la colpa per la colpa, periodistas, terroristas, urlano i giornalisti, e ancora una volta il Bernabeu fischia. È la frattura che porta, di cui tu adesso caro Fabio Tavelli, ci ricorderai sinteticamente le tappe, che poi porta a degli sviluppi attuali ancora più inquietanti. Sì, io credo anche che ci sia una frattura abbastanza netta tra gli ultrasur e il resto del Bernabeu in generale. Questo è un motivo ulteriore. Il motivo ulteriore nasce un motivo ulteriore per stare dalla parte del Bernabeu, perché questi sono gli ultrafascisti dell'eredità franchista. Ma non c'è il minimo dubbio, il minimo dubbio su questo. L'ultimo momento di allontanamento e di sensazione, perché ieri tra l'altro una TV spagnola, seppur minore, avanzava in maniera molto molto netta e molto decisa il fatto che Mourinho avrebbe già deciso di abbandonare il Real Madrid alla fine della stagione, cosa che a me non sorprenderebbe, perché comunque lui decise di abbandonare l'Inter molto prima della fine della stagione, quella del triplete, quando non aveva ancora vinto la Coppa dei Campioni, la Champions League e il campionato. Comunque, a parte questo, l'ultimo motivo del contendere è questo alterco, questa discussione, come dire, da toni forti, che però tutti dicono, e siamo sicuri che sia così, è abbastanza normale nelle dinamiche degli spogliatoi. Non è tanto normale che un giocatore abbia il coraggio di dire a Mourinho: lei non è stato un giocatore e quindi certe cose non le può sapere, che penso sia una delle offese peggiori che José Mourinho possa non dico ascoltare, ma anche solo pensare che qualcuno abbia immaginato. Qualunque allenatore sa che in questi casi amava dire, non è necessario essere stato cavallo per essere magari il migliore dei Fantini, però insomma è una di quelle cose che detta da un tuo giocatore in faccia ti morde. Io la riascolterei velocemente nella versione, tra l'altro magnificamente doppiata, che avete dato voi di Sky sin da domenica. Sentiamo. Mi avete ammazzato parlando in zona mista. No, mister. Lei ha letto solo quello che la stampa ha riportato, non tutto quello che abbiamo detto noi. Domani devo andare io davanti alla stampa. Certo, mister, lei non ci lascia parlare. Né facendo interviste, né facendo conferenze stampa. Lei si è arrabbiato quando Iker ha chiesto scusa a Xavi. E quello che ha fatto Pepe nel video cos'è? Certo, siccome voi spagnoli siete stati campioni del mondo, i vostri amici della stampa spagnola vi proteggono come fanno col portiere. Mister, qui le cose si dicono in faccia, ok? Dove eri sul primo gol, Sergio? Stavo marcando Piqué. Sì, e dovevi marcare Pujol invece. Sì, ma siccome Piqué stava sbagliando troppo, abbiamo deciso di scambiarci le marcature con Pepe. Cosa succede adesso? Giochi a fare l'allenatore? No, ma a seconda della situazione della gara, a volte bisogna cambiare le marcature. E visto che lei non ha mai giocato, non sa che a volte succedono queste cose in campo. Insomma, effettivamente non una cosa da tutti i giorni. Fabio, non è da tutti i giorni nemmeno quello che stamattina scrive Alfredo Relano, direttore di AS, quindi uno dei due quotidiani sportivi spagnoli, che forse per mettersi sulla scia di Marca, perché poi diventa anche giornalisticamente diventa una gara a inseguimento, no? Questa. E allora scrive il suo titolo è Mourinho tiene vocation de schettino. Ora io credo che in un frangente come questo la frase incriminata è Mourinho deslisa che se va, che pensa saltar del Madrid come schettino da Costa Concordia, lascia scivolare l'idea di andarsene e che possa saltare dal ponte del Real Madrid come schettino dalla nave Costa Concordia, mi sembra greve. Quando noi ci rimettiamo delle polemiche di casa nostra, forse non abbiamo ben idea, no? di qual è il livello altrove. Io mi terrò una fotocopia di questo editoriale e il prossimo allenatore che sentirò dire in conferenza stampa che la stampa italiana è rompiscatole fastidiosa, glielo leggerò. Certo, bravo, che deslisse. Voce, ho anche già un paio di nomi ai quali... A mollarla, dici? Ma più o meno, secondo me li indovini, ma magari ne parliamo dopo. Sì. No, dicevo, io credo che José Mourinho abbia toccato un nervo scopertissimo e cioè abbia... Allora, premessa, no, questa non è un'intercettazione, questo è un virgolettato attribuito e quindi certamente con tutti i limiti del caso, scritto però da Marca, che è come, non so, vogliamo fare un esempio, è come il giornale col PDL, è come Repubblica col Partito Democratico, è come tutto sport con la Juventus, cioè c'è un legame molto forte. Sono voci da dentro più che esatto, attendibili. Insomma, esatto, no? E quindi qualcuno ha cantato e quindi ha raccontato questo. È evidente che non è stato Mourinho, sarà stato un giocatore. Sergio Ramos ha un po' corretto su Twitter ieri, ma non ha fatto una smentita. Ti dirò che scusami, questa è una battuta da poco proprio dai siti e dalle agenzie spagnole. Sergio Ramos è stato convocato, gli ha fissato un incontro Florentino Perez, il presidente, quindi diciamo che l'identikit si sta completando, insomma. Sì. Mourinho dice una cosa, dice la stampa spagnola vi difende perché siete i campioni del mondo, lui ce l'aveva con Casillas e con Sergio Ramos e il rischio per Mourinho è intanto di, cioè non è più nemmeno un rischio perché è evidente che Marca e AS sono giornali molto vicini al Real Madrid e se lo attaccano in maniera così potente vuol dire due cose, uno che il rapporto si è definitivamente rotto e due che forse ha ragione quella TV spagnola a dire che Mourinho a fine stagione andrà via, perché è più facile attaccare uno che se ne andrà in maniera abbastanza banale. E la seconda è che Mourinho rischia di spaccare la squadra in due, tra gli spagnoli da una parte e i portoghesi dall'altra, perché comunque la componente dei portoghesi, Pepe, Carvalho, ovviamente Cristiano Ronaldo, ovviamente Fabio Coentrao, cioè è una componente forte e lui stesso evidentemente ha i suoi pretoriani, ma anche giocatori che con tutta probabilità avendo vinto come se non più di lui, e credo anche più di lui a questo punto, perché Mourinho è spesso stato molto forte per il fatto che era quello che aveva vinto di più, nel Real Madrid ci sono due o tre giocatori che hanno vinto più di lui, certo. Grazie anche alla nazionale, evidentemente. Sì, ti dirò che tu hai usato anche il verbo spaccare a proposito della spaccatura di spogliatoio, e a proposito dei portoghesi, i portoghesi sono quelli che hanno cercato di spaccare Messi, no? Nell'andata di Madrid, e questo ha generato in realtà... Sì, questa cosa, perché è bello partire da lì, no? È bello anche perché, perdonami, Mourinho, sempre secondo le ricostruzioni della stampa spagnola, si era molto arrabbiato con i giocatori che avevano testimoniato solidarietà, i giocatori del Real Madrid che avevano testimoniato solidarietà a quelli del Barcellona dopo le ignobili cacce all'uomo della stagione scorsa, certo, durante quei mille classicos che abbiamo visto. E il fatto che Mourinho in conferenza stampa non si sia dissociato, ma se la sia cavata accusando Busquets di razzismo per una cosa che era dell'anno scorso, forse non è piaciuta tantissimo ai nazionali. E infatti, guarda caso, Mourinho se l'è presa con Casillas e con Sergio Ramos, che sono comunque due colonne della nazionale, certo, e anche compagni di Busquets, tra l'altro, quindi diciamo che tutto torna, il thriller è abbastanza divertente e appassionante, la storia secondo me è molto verosimile, molto vicina al vero. Certo, e poi il paradosso finale è che la conclusione di questa storia sarà che Coppa del Re, insomma, domani sera al Bernabeu sarà difficile rimontare per il Real Madrid, ma... in attesa di vedere come andrà poi in Coppa Campioni, perché tutto è ancora da giocare, rimane il fatto che con questa lacerazione ambientale così grave, interna allo spogliatoio quasi certamente, ma con il pubblico certamente, il Real è probabile che vinca come minimo la Liga quest'anno, visto come è piazzato. Sì, sì, ma tra l'altro io io mi aspetto comunque una grande partita dal Real Madrid domani sera, non mi aspetto un Real Madrid che vada lì a... Oddio, cioè, se succede può essere sospetto, ma non credo succederà, nel senso che credo che il Real Madrid comunque giocherà una partita di grande vigore e i quarti di nobiltà dei giocatori avranno la meglio anche sui nervosismi che vengono instillati da altrove. Il Real Madrid credo che vincerà la Liga ed è una delle grandi favorite anche per la Champions League, quindi non è escluso che Mourinho, se andrà via con un bel bottino anche quest'anno, anche da questa avventura. La considerazione complessiva che si deve fare secondo me è un'altra, cioè che il logoramento che José Mourinho provoca alle proprie squadre col passare degli anni, e non sono molti perché Mourinho ne compie 49 giovedì, quindi è veramente ancora giovane, si sta sempre più accorciando, cioè il suo ciclo dal Chelsea all'Inter al Real Madrid diventerà sempre più breve. E oltretutto lui si sarà bruciato la possibilità di allenare in molti campionati, perché in Italia o torna all'Inter o non credo che alleni. In Spagna, se alleni il Real Madrid, non puoi allenare il Barcellona, e non credo che gli avrà voglia. No, non penso che glielo proporranno, tra l'altro. No, e non penso che lui vorrà accettare Valencia o Siviglia o quant'altro. No. Gli resta la Premier League, dove non mi risulta Manchester, sponda United, lo adorino particolarmente. Proprio ieri Alex Ferguson, lo leggo anche qua dalla Gazzetta Extra Time, ha spiazzato tutti proponendo per come suo erede Solskjaer, che a 38 anni, alla prima esperienza in panchina, ha vinto il campionato norvegese con una squadra che non ha mai vinto. E ne ha fatto un grande elogio, è sempre stato bravo a leggere le partite, anche quando giocava, meticoloso, eccetera. Quindi diciamo che Ferguson una mezza idea su chi gli potrebbe succedere ce l'ha, e non sembra essere Mourinho. Poi, e dovrebbe essere uno che conta nella scelta del suo successore, Ferguson, credo ne abbia anche diritto. A spanne direi proprio di sì. Fabio, io ti ringrazio molto. Grazie come sempre per questo intervento. Stasera a Torino si diceva la sfida secca per i quarti di finale tra Juventus e Roma in Coppa Italia, la principale, anche se Napoli-Inter per carità non sarà poi molto da meno, tra questi quarti di finale, in calendario da stasera a giovedì, la vigilia di e le intenzioni di Conte. Sicuramente la Roma mi piace, ma mi piaceva anche quando l'abbiamo affrontata in campionato, perché comunque ha una propria identità, ha una precisa idea di gioco, e questo è già tanto, ecco, perché non è da tutti. Sì, che è un po' il discorso che vale anche per la Roma. Mi pare che Juventus e Roma siano proprio le squadre che più hanno innovato, ma anche nel modo di stare in campo, di interpretare la partita. Quest'anno, se ci sono due novità, non trascendentali, non certamente di portata storica, perlomeno per il momento, ma due modi diversi di interpretare rispetto a quello che si vede, che si è visto negli ultimi tempi, sono certamente di Juventus e Roma. La risposta, no, non la risposta a Conte, ma insomma i propositi buoni di Luis Enrique. Credo che la Juventus, la partita che ha giocato qui, ha dimostrato che è una squadra vincente, è venuto a fare la sua partita, a fare la sua proposta, a vincere la partita all'Olimpico e quasi lo riesce a fare. E credo che è il migliore esempio per noi. Noi dovremmo andare nello suo stadio a fare lo stesso, andare a fare la nostra proposta e vedere se siamo capaci di vincere questa squadra. Altin, ha chiamato da Perugia, buongiorno. Sì, buongiorno, mi sente? Certo, dica. Sì, guarda, sono un po' emozionato, complimenti, io vi ascolto la replica alle quattro perché faccio camionista, allora questo orario sto un po' così, a posto la chiamata, ti ringrazio, faccio i complimenti di nuovo. Alti, indica. Non dice più, deve essere stato un problema di linea. Camionista, avrei anche voluto chiedergli come si colloca in questi giorni, se tra i pacifici o i meno pacifici. C'è stata anche una tragedia stamane ad Asti, se non ho letto male sulle agenzie da poco. Alberto, provincia di Udine, buongiorno. Sì, buongiorno Granzini, grazie per l'ospitalità. Dica. Dunque, volevo fare una considerazione riguardo a Lecce-Chievo. Della settimana stata, quando c'è stato quell'episodio al 94esimo su quel fallo che a me sembrava fallo, poi non si è capito, insomma è tutto quello che è successo dopo. A me sembra grottesco che l'arbitro, che sarebbe l'unica persona che dovrebbe vedere e rivedere quello che è successo, non lo può rivedere, e questo scatena una sorta di ingiustizia, secondo me. Secondariamente, sempre sugli arbitri, non si potrebbe una partita a settimana invitare a caso, anche invitare un arbitro e chiedergli delle cose, in modo che così si vede le facce, come diceva Beppe Viola, così quando uno parla si vede la faccia, e così secondo me si cancellerebbero anche tanti sospetti che ci sono in giro, insomma. Ma io credo invece, grazie. La penso diversamente, credo invece che l'arbitro, che così gli si darebbe una notorietà che l'arbitro non deve avere, possibilmente non deve avere. L'arbitro più bravo è quello che non si fa notare, lo si è sempre detto, ma credo che valga tuttora. E nell'interpretazione del ruolo dell'arbitro, l'arbitro è un servizio, non deve essere un protagonista, quindi io non sono granché d'accordo. Sulla prima parte, invece del suo intervento, lei ha chiamato da Udine, mi fa venire in mente che ho sempre d'avanzo di ieri, ma promesso sin da ieri, il grande intervento scritto di un suo concittadino che si chiama Filippo Di Paola, che voleva che mette le cose a posto tra calcio e baseball, o tra calcio e football americano, come negli ultimi giorni forse per promuovere il Super Bowl si è sentito spesso. Più tardi, tra poco, sentiamo Agostino dalla provincia di Padova, buongiorno. Buongiorno Garattini, complimenti per la trasmissione. Volevo solo partire con un discorso praticamente su Balotelli. Chi conosce il passato governa il futuro, cioè tanti giocatori della qualità di Balotelli, mi riferisco a Naka Skoglund, Garincha, a parte che forse erano di un altro livello, loro hanno terminato la loro generale carriera purtroppo con un pugno di mosca in mano. Non vorrei con questo comportamento il nostro Balotelli, che probabilmente non conosce il futuro, non lo conoscerà mai, forse non è nemmeno in grado di conoscerlo, purtroppo no, si trova nemmeno in grado di conoscerlo. Io non le rubo la linea perché era molto disturbata. Io non credo, credo che si debba, a cominciare da Prandelli, credo che sia logico continuare a sperare e ad attendere la maturazione di questo ragazzo. Lei ha parlato di altri giocatori, ma insomma Skoglund sì, alla fine si fece travolgere dal bicchiere, non mi pare che questo per il momento faccia parte dei vizi di Balotelli. Garrincha era uno straordinario uomo della foresta e dentro di sé, nello spirito, nel cuore, non è mai del tutto uscito a dispetto di una carriera assolutamente straordinaria, ma era un uomo più buono e dolce del mondo, certamente non gli sarebbe mai venuto in mente di commettere scorrettezze che invece si sono viste e sentite. Forse abbiamo ripristinato il collegamento con l'ascoltatore di Perugia, Alti indica. Sì, buongiorno di nuovo, sì. Ringraziamenti. Sintesi, dai. Sì, ascolta, ho visto ieri sera l'Oscar del calcio, no? Un complimenti all'Udinese perché è una squadra tutto a posto, guarda, mi sono meravigliato, che li auguro da tutto il calcio italiano di seguire l'Udinese. Certo. Grazie del suo intervento. Io sentirei ancora un frammento, un'intervista a Totti, perché è che Prandelli addirittura gli ha dato un colpetto di telefono per tenerlo in un'eventualità di preallarme per gli europei, vista la condizione che Totti ha ritrovato. E allora, in attesa di altri vostri interventi all'800 24 00 24, sentiamo Francesco Totti. Mi fa veramente piacere che il mister mi prenda in considerazione, poi ho sempre detto che con lui ho un grandissimo rapporto, e poi sì, mai dire mai, poi a maggio certo, se sarò in questa condizione valuterò, spero di arrivarci così. In genere a 35 anni dovresti stare un po' in discesa, come dicono tutti, io sono salito. è strano, però credo nelle mie potenzialità, però penso che la cosa più importante è il mantenersi, è fare una vita sana, una vita tranquilla e essere veramente professionista. Intanto stasera a Torino va in scena un revival in piena regola, no? Perché De Piero una parte e Totti dall'altra, insomma sembra davvero ritornare indietro di una quindicina d'anni almeno. Sentendo la voce di Totti sono riuscito a ripescare un ritaglio di ieri della rubrica televisiva ironica che Antonio Di Pollina tiene il lunedì su Repubblica. A proposito di una breve intervista di domenica scorsa sulla RAI, e questo frammento è il seguente: Francesca Sanipoli si rivolge in maniera accorata a Luis Enrique e gli chiede di Totti: mister, una parola su questo campione di cui noi abbiamo la fortuna di essere contemporanei. Chiuso le virgolette, chiosa di Pollina, vero, e serve a consolarsi del fatto di essere contemporanei anche della Sanipoli. Arriviamo a Filippo Di Paola, che ha scritto la seguente mail a proposito di paralleli impropri tra football americano e calcio. Un ascoltatore, scrive Filippo, ha messo a confronto il football americano con il calcio, parlando di instant replay e della regola del challenge. Storia già sentita. Ma volevo precisare che vi è proprio una filosofia differente alla base di questi due giochi. In America sarebbe inqualificabile se non fossi il più forte a vincere. E se qualcosa come un errore arbitrale, una svista o anche la semplice sfortuna impedisse al più forte di portare a casa il premio. Ed è questo il bello dello sport americano. D'altra parte, il bello dello sport europeo è che la fortuna è una componente di qualche peso e che a volte il più debole può sconfiggere il più forte, che a volte Davide può persino abbattere Golia. Quindi è una questione di filosofia, di gioco e di società. Senza dimenticare, qui arriviamo al punto, che il football americano è uno sport in cui il centimetro, la posizione, il ginocchio che tocca a terra stabilisce la regolarità o meno dell'azione. Come non precisare anche che questo è uno sport di attesa? Cioè c'è una pausa di un minuto per fare un'azione di 3 secondi e poi il gioco si ferma nuovamente. Così, fermare ulteriormente la partita per assistere a una moviola non costa pressoché nulla. Nel calcio invece fermare il gioco per 5 minuti è una follia. Questo tempo è superiore al tempo di recupero che si fa di solito. Senza contare che un errore dell'arbitro sull'instant replay come verrebbe giudicato, quali strali si attirerebbe, quante dietrologie. Ultima cosa, faccio notare che in America, patria del replay, nel baseball la moviola è assolutamente bandita. I puristi di questo sport, che fanno della dinamica del gioco la ragione della bellezza del baseball, sostengono che è il movimento a determinare la ragione e l'arbitro a confermarla, il resto sono chiacchiere. Trovo sia una buona regola anche per il nostro calcio. Filippo, grazie per questa messa a punto, che poi volendo avrebbe ancora un capoverso niente male. Vediamo se ci sarà spazio più tardi. Adesso ha chiamato Ettore da Milano. Buongiorno. Pronto? Dica Ettore. Buongiorno dottore. Senta, io è un argomento un po' venale, mi rendo conto, però io nel 1995 comprai una schedina già fatta, perché non ero molto, diciamo, non sono un gran tifoso, mi piace il calcio, però non ero esperto. compro questa schedina, la riguardo al lunedì lì a un tabaccaio qualsiasi di Milano e mi accorgo di aver fatto un 12. Allora entro dentro da questo tabaccaio e dico: senta, me la controlla, sono un po' emozionato così. Lui la guarda e dice: caspita, ha fatto 2-12, complimenti, di qua e di là. Dice: peccato, perché lei al 90° aveva in tasca 1.700.000.000. E dico: scusi, mi spieghi sta cosa? Dice: guardi, la Roma allora nel 95 era in testa al campionato e era una partita con la Cremonese, adesso non so se vi ricordate, comunque la Cremonese vinceva 1-0. Al 90°, anzi al 91°, la Roma prende una traversa, il pallone scende, c'era un po' di mischia, l'arbitro nel dubbio non ha consultato nessuno e ha dato il gol. Poi al mercoledì, che c'era la moviola, si è visto che era fuori mezzo metro. Lei capisce, vabbè, si tratta di soldi, ho vinto comunque una cifra, però insomma, voglio dire, per un errore arbitrale la mia vita poteva cambiare, no? Le fare. Certo, se ci fosse stato un controllo un pochino più preciso, certo, forse io ha capito. Parlare di soldi, però il discorso è questo. Sì, ci sarebbe stato non un Ettore da Milano, ma un Filippo da Piacenza oppure da Castellammare di Stabia, che con quell'altro risultato avrebbe fatto a sua volta 13, magari non vinceva 1.700.000.000, cosa che ha detto lei, avrebbe vinto una cifra diversa, ma avrebbe vinto un altro a seconda di quello. Se la moviola la dobbiamo legare addirittura alle fortune nel totocalcio, siamo proprio messi abbastanza bene, anche se capisco il suo disappunto, che giustamente lei non ha dimenticato a distanza di 16 anni. Non dico nessun messaggio, ma non più di 2-3 su Mourinho e su queste ultime vicende. Vuol dire che probabilmente sta tramontando, oppure sta un po' passando di moda, oppure ormai si è capito tutto e non c'è più niente che possa sorprendere. Sentiamo cosa ha trovato per il 24 gennaio Nicola Filippone. Sembra ieri. 24 gennaio 1987. A Bergamo, l'Italia di Vicini strapazza Malta per 5-0 in una sfida valida per la qualificazione alla fase finale degli europei, conquistando la testa del gruppo 2. I gol arrivano tutti nella prima frazione e portano le firme di Bagni, Bergomi, Altobelli, autore di una doppietta, e Vialli. L'attaccante della Sampdoria realizza così l'attesa rete numero 1 in maglia azzurra. Vialli totalizzerà complessivamente 59 presenze in nazionale, mettendo a segno 16 gol. E questa era la testimonianza sulla data di oggi di Nicola Filippone. Sono molte polemiche a Bergamo per i 35.000 euro di ammenda all'Atalanta per gli scontri, gli incidenti di sabato sera, e i soli 15.000 invece di multa alla Juventus per i Bengala e le bombe carta. Il direttore sportivo Pierpaolo Marino ha detto che la multa alla Juventus non è proporzionata alla gravità dei fatti, che potevano procurare danni molto più seri e che i tifosi della Juventus hanno tenuto un atteggiamento vergognoso. In realtà l'Atalanta ha pagato un conto molto più salato, perché una monetina ha colpito l'arbitro Celi alla spalla e questo evidentemente ha fatto, dato che insomma, la sacralità assoluta è quella per la figura dell'arbitro, questo evidentemente ha fatto scattare in alto il montepremi. Poi ci sono stati lanci di bottigliette, peraltro vuote, precisa il comunicato del giudice sportivo, e palline di carta scagliate verso Pepe, che era infortunato a bordo campo, mentre i 15.000 euro della Juve sono esclusivamente dovuti a Bengala e bombe carta. Poi delle proporzioni o sproporzioni risponde evidentemente il giudice sportivo Tosella. C'è Roberto in linea da Rimini, buongiorno. Roberto, dica. No, evidentemente Roberto non dice. Andiamo da Gianmaria in provincia di Pavia, buongiorno. Buongiorno, è un piacere, Garanzini. Senta, io chiamavo perché stimolato dal 20 fa l'ascoltatore che chiedeva perché non consentire agli arbitri una volta a settimana dar spiegazioni, parlare, tutto. Ora, mi pare che forse nel football americano gli arbitri commentino le loro decisioni, mi pare, non lo so. No. Poi mi domando, se non c'è una moviola in campo, perché lasciarli muti questi arbitri? Voglio dire, adesso la domanda non è polemica, però gli arbitri in Italia devono giudicare che cosa? Una partita che potrebbe decidere, non so, la vittoria del campionato, il secondo terzo posto, quindi dei soldi di fondo. Ma abbiamo la magistratura che parla quando vuole e parla di fatti nostri, di cose, io mi scusi, ma più serie. Allora, loro parlano e gli arbitri devono stare zitti per un gioco, per uno sport. Perché? Non sono, Gianmaria, non sono all'altezza, sinceramente. Non mi ritengo all'altezza di entrare in questo genere di discussioni. Sono paragoni che non capisco, non lo so, è bello fare la chiacchiera da caffè, la chiacchiera da bar, ma insomma bisogna esserci tagliati, evidentemente non è il mio genere, me ne dispiace. Guardi, torno a Filippo Di Paola, perché sinceramente mi diverto molto di più, ma credo che si divertano anche le persone collegate ad ascoltare riflessioni colte, non so come dire, documentate. Questo per esempio ricomincia Filippo con il parallelo tra il football americano e il calcio di casa nostra e dà secondo me un paragone definitivo che mi ha molto colpito come immagine, perché dice: il football americano è l'equivalente a una partita a scacchi umana in cui si parte da una posizione di partenza grosso modo fissa e da quel punto si cerca di imporre uno schema d'attacco ben preciso. E questo è possibile perché il gioco è costantemente fermo. E quindi il regista dell'attacco, che ha persino gli schemi scritti su un avambraccio, ha la possibilità di leggere, di scegliere e spiegare ai giocatori prima che l'azione riprenda. Il calcio invece è una specie di modello Bauman, scrive sempre questo ascoltatore dotto, applicato al gioco, sacro della società liquida. Bene, il calcio è un gioco fluido in cui la squadra che può vantare il maggior possesso palla lo ottiene obbligando i giocatori ad avere il pallone tra i piedi il meno possibile. La palla arriva e se ne va. È un gioco in cui più lo schema è fluido e meglio funziona, ed è un gioco in movimento al contrario del football americano. Io sinceramente mi diverto di più in questo genere qua, che non se l'arbitro deve parlare, deve tacere, perché tace, come mai parla. Per esempio l'altro giorno ha parlato Vialli, no? Su una, non ha parlato per la verità, ha scritto su Twitter, se non ricordo male, un messaggio su cui Zeman, che ha molto fatto arrabbiare Zeman. Sentiamo la risposta del profeta di Pescara, dai. Battuta fuori luogo con i suoi precedenti, a me non mi tocca, di me si può dire tutto, tanto poi ci sono le cose vere e cose non vere, io non ho nessun problema con le mie azioni o con le mie squadre. E quindi chiudetela, basta, è una battuta infelice, dove ci potrebbe fare male una battuta così sciocca? La battuta sciocca più o meno era che Vialli si era domandato: adesso che il Pescara sta giocando un grande calcio e sta correndo in maniera dannata, come si sentirebbe Zeman, grosso modo, se qualcuno mettesse in dubbio la legittimità di questa corsa? Io non la trovo poi neanche così gratuita come domanda, no? Visto. Perché poi so, chi scaglia la prima pietra deve anche mettersi nelle condizioni mentali poi di sapere che le pietre possono tornare. Velocemente, Damiano da Roma, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Volevo fare questa domanda per quanto riguarda questa sera. Secondo lei, se il gioco della Roma, che comunque è molto arioso e va bene soprattutto con le squadre, secondo me medio piccole, con la Juve o con le grandi squadre possa avere delle difficoltà serie? Certamente più difficoltà che non con le medio piccole, ma questo credo che valga per qualsiasi tipo di gioco. Sì, io parlavo delle 10 occasioni da gol che normalmente ha su una partita, poi magari ne mette dentro una sola. Sì, sì, ma soprattutto la fragilità difensiva, perché non mi pare che da questo punto di vista la Roma abbia già risolto i problemi, no? Sta cercando di porre rimedio spostando il baricentro più avanti e quindi allontanando l'attenzione e la pressione dalla propria difesa. Ci sta riuscendo molto bene, ha detto lei, con le medio piccole, vediamo con le grandi a cominciare da stasera. Grazie a Franco Piantanila in redazione, in regia al nostro amico Rudy, e buon pomeriggio a tutti. A tempo di sport.